Storie italiane. Il sarto coraggioso. C'era una volta, in una piccola città, un sarto di nome Riol. Riol passava le sue giornate realizzando abiti, gli abiti più belli per tutte le persone della città. Un giorno, mentre Riol era seduto a cucire nella sua stanza, alcune mosche andarono a ronzare intorno a lui. All'inizio cercò di scacciarle. «Ah, queste mosche sono così fastidiose! Andate via! Show! Ha! Se ne sono andate! Pensavano di farla franca con me? Ah, altre mosche! Devo essere dolce come la marmellata se ce ne sono così tante! Sparite tutte voi! Oh, sette mosche! Ho cacciato sette mosche da solo! Le mosche hanno così paura di me! Sono una persona così coraggiosa! Il mondo intero dovrebbe saperlo!» Quindi prese tutto ciò che aveva in casa sua, solo un pezzo di formaggio, se lo mise in tasca e partì per raccontare al mondo del suo coraggio. Mentre viaggiava, si imbatté in un uccello che era bloccato in un cespuglio. «Sento che questo uccello potrebbe essermi utile. Lo terrò con me.» Quindi mise l'uccellino nella sua borsa e continuò a camminare per la sua strada. Alla fine arrivò su una collina. Riol era stanco di camminare, così stanco che decise di riposare. «Ah, quella passeggiata è stata così faticosa. Questa roccia dovrebbe andare bene per appoggiare la mia schiena. Ah, questo è così bello. Oh!» Riol fu molto sorpreso, perché la roccia che si era allontanata non era affatto una roccia. Mentre alzava gli occhi, Riol vide che si era appoggiato sul piede di un gigante. E ora c'era un gigante enorme in piedi di fronte al povero Riol. «Mio Dio! Un gigante! La roccia era il suo allucione. Non c'è da stupirsi che fosse così puzzosa.» «Non chiamare puzzoso il mio dito, piccolo debole umano! Non sai chi sono io? Sono il gigante più potente che sia mai esistito su questo pianeta. Ho sconfitto molte guerre e combattuto molte battaglie. Non ho mai sentito parlare di me?» «No, ma tu hai sentito parlare di me? Sono io quello che ha cacciato via sette? Da solo!» «Sette?» «Sì, sette! Tutto solo!» «Ma quali sette hai cacciato? Erano uomini? Giganti? E se fossero state mosche? Nah, nessuno andrebbe in giro vantandosi di aver scacciato delle mosche! Va bene allora, lasciami testare la tua forza! Puoi fare questo?» Il gigante sollevò un'enorme roccia e la strinse tra le mani. Si spezzò e si sbriciolò e diventò polvere. «Tutto qua? Io posso trasformare una roccia in acqua!» E Riol tirò fuori il formaggio dalla sua borsa e lo strizzò forte. Il gigante osservò mentre tutto il liquido colava dal formaggio. Non sapeva che era formaggio e credette a ciò che Riol gli aveva detto. «Molto bene, ma vediamo quanto bene sai lanciare!» E prese un masso e lo gettò lontano in aria. Atterrò abbastanza lontano con un forte tonfo. «Ah, vediamo come batti questo!» «Questa è la cosa più semplice che mi hai chiesto!» Di nuovo cercò nella sua borsa e tirò fuori l'uccellino. Lo nascose bene tra le mani mentre lo lanciava, in modo che il gigante non potesse vedere che era un uccello e non una roccia. L'uccello fu estremamente felice di venir liberato e volò via nel cielo. «Come hai fatto? La mia roccia è caduta a terra. Perché la tua roccia non ha fatto lo stesso?» «Perché l'ho lanciata meglio. Significa che sei più debole di me e anche puzzolente.» «Non sono puzzolente. Bene allora, devo riportare questo albero nella mia caverna. Devi aiutarmi a portarlo. Sarai in grado di farlo?» «Certo che lo farò. Puoi portare il tronco. Io porterò i rami.» «Ma il tronco sembra più pesante. Perché dovrei portarlo io?» «Grande gigante, dal momento che il tronco si trova davanti, dovresti portarlo tu. Dato che io non conosco la strada per la tua grotta, porterò la parte posteriore dell'albero.» Quindi il gigante accettò il suggerimento di Riol. Perché sebbene il gigante fosse forte e potente, con una voce simile a un tuono, non era proprio acuto. E dal momento che portava il tronco pesante, non poteva guardare indietro. Se lo avesse fatto, avrebbe visto Riol seduto felicemente e pigramente sui rami. come può fischiare? I rami non sono pesanti per lui? Deve essere forte. Non può esserci qualcuno più forte di me. Devo liberarmi di lui. Alla fine raggiunsero la grotta. Riol balzò giù dai rami e il gigante si voltò. Non sei senza fiato? La passeggiata e l'albero non erano troppo per te? Ne ho scacciati 7 con solo un movimento della mia mano. Portare un albero enorme su alcune lunghe colline non è niente per me. È stato molto semplice, vedi? Un buon esercizio. Bene, perché non passi la notte qui? O hai un posto dove stare? No, non ce l'ho. Sarò felice di stare qui per la notte. Quindi Riol e il gigante cenarono insieme quella sera e finalmente andarono a dormire. Tuttavia, il letto di Riol era troppo grande per lui, quindi andò in un angolo della stanza e dormì lì. Nel mezzo della notte, il gigante entrò nella sua stanza e si fermò sul letto. Aveva una mazza di ferro con sé e con essa ruppe a metà l'enorme letto. Ecco! Ora che mi sono liberato di lui, posso dormire bene stanotte. Quando arrivò la mattina, il gigante stava facendo felicemente colazione. Proprio in quel momento, le porte della stanza di Riol si spalancarono e ne uscì Riol. Oh, buongiorno, signor Puzzo Gigante. Ho dormito molto bene, ma mi dispiace dire che il tuo letto è rotto. Forse mi sono stiracchiato troppo la scorsa notte. Come sei vivo? Questo è troppo per me. Il gigante, sopraffatto dalla paura, corse fuori dalla caverna e non si fece vedere mai più. Riol continuò il suo viaggio ancora una volta. Questa volta raggiunse un regno. Andò nei giardini e si addormentò sull'erba soffice. Lì una guardia lo vide dormire e lo svegliò. Chi sei tu? E come osi entrare nel palazzo del grande re? Di al tuo grande re che io, il grande Riol, che ho cacciato via 7 da solo, sono venuto a trovarlo. La guardia fu scioccata quando sentì questo. Portò Riol dal re. Wow, il palazzo del re! Quelle mosche hanno davvero fatto la mia fortuna. Saluti, sua maestà. Sono Riol, il grande uomo che ha cacciato via 7 tutto da solo. È davvero fantastico sentire questo. Il mio regno è turbato da 2 giganti. Spaventavano la mia gente e portavano via i nostri animali. Devi andare nella foresta dove vivono e affrontarli. Quelle mosche non sono state la mia fortuna. Se lo farai, potrai sposare mia figlia ed avere metà del mio regno tutto per te. Erano decisamente la mia fortuna. Come desidera sua maestà. Andrò in questa foresta e tornerò da lei solo con buone notizie. Bene, potrai portare con te tutti i soldati che vorrai. Buon re, non ho bisogno di alcun soldato. Andrò tutto da solo e sconfiggerò facilmente questi 2 giganti. Così si recò nel cuore della foresta e quando arrivò vide i 2 giganti che dormivano profondamente. Salì su un melo, appena sopra i giganti addormentati, e colse 2 mele. Ora divertiamoci un po'. Lanciò una mela su uno dei giganti, colpì il gigante in testa e lo svegliò. Ehi, mi hai colpito proprio ora? Cosa? Di che cosa stai parlando? Da vedi che sto dormendo? Perché dovrei colpirti? Torna a dormire. Forse stavo sognando. E tornò a russare. Riol lanciò un'altra mela, ma questa volta sul secondo gigante. Si svegliò rabbiosamente per il dolore. Mi hai colpito? No, non l'ho fatto. Non mi hai visto dormire? Sono sicuro che mi hai colpito. Mi hai svegliato una volta e ora mi stai ingannando di nuovo. Proprio in quel momento, Riol lanciò una mela dall'altra parte. Il suono della mela che colpiva la corteccia di un albero distrasse i 2 giganti. Penso che qualcuno sia là fuori a cercare di disturbarci. Beh, allora non è molto intelligente. Andiamo a prenderlo. Mentre i 2 passavano sotto l'altro albero, una grande gabbia cadde e li intrappolò. Bravo! I due giganti fecero del loro meglio per uscire dalla gabbia. Presto però si stancarono e svennero. Riol sorrise. Presi! Altezza, ho intrappolato i giganti. Ora avrò la principessa e il regno? Così facilmente? No, non ancora. Ho un altro compito per te. Alla fine del regno, nei boschi, vive un unicorno. Portamelo. Solo allora potrai sposare mia figlia e avrai metà del mio regno. Farò ciò che mi chiede, volentieri. Così se ne andò nel bosco per catturare l'unicorno. Quando lo vide, si rese conto che era davvero una creatura molto bella. Quando vide Riol, gli parlò con rabbia. Chi sei? Perché sei entrato nella mia foresta? Sono stato mandato dal re per riportarti con me. Il re? Ah! Il re ha avuto la sua possibilità di prendermi. Gli ho chiesto di esaudire solo un mio desiderio, ma non è riuscito a farlo. E quale desiderio sarebbe? Lasciami provare a esaudirlo per te. Vorrei vedere un arcobaleno. Non ne ho mai visto uno in vita mia e tutti i miei amici lo hanno visto. Se riesci a farlo, tornerò con te nel regno. Riol alzò lo sguardo. Era nuvoloso e presto sarebbe piovuto. Ci pensò un momento e un'idea lo colpì. Tutto qui? È un compito facile. Posso mostrarti l'arcobaleno fra pochi istanti. In quel momento cominciò a piovere molto forte. Riol e l'unicorno corsero sotto gli alberi per ripararsi. Mi hai mentito! Volevo un arcobaleno luminoso e mi hai dato la pioggia? Sono un mago e assorbo la magia della pioggia. Una volta assorbito tutto il potere, ti mostrerò l'arcobaleno. Presto la pioggia si fermò e quando le nuvole si separarono, rivelarono un arcobaleno. Ora, guarda là, guarda in cielo. Oh, che bello! I colori mi riempono il cuore di felicità. Oh, grazie, grande mago. Come ho promesso, verrò con te dal re. E così Riol e l'unicorno tornarono insieme nel regno. Buon re, le ho portato l'unicorno. Ora deve mantenere la sua promessa. Molto bene. Potrai avere metà del mio regno e sposare mia figlia domani. Quindi, il giorno successivo, si tenne una grande cerimonia matrimoniale e il regno ne fu felice. Quella notte, mentre erano a letto, la principessa sentì Riol parlare nel sonno. Qui, ragazzo, taglia quel cappotto e cucilo bene. Cappotto? Cucire? Mio marito non è uno speciale o un nobile. È solo un normale sarto. La principessa andò con rabbia da suo padre e gli raccontò ciò che aveva sentito. Ma non posso dirgli di andarsene, non sarebbe giusto. Ma non preoccuparti, mia cara, lo farò portare via dalle mie guardie stasera. Mentre il re parlava, un ministro, a cui Riol stava molto simpatico, udì ciò che il re stava dicendo. Andò a trovare Riol e gli disse tutto ciò che il re aveva detto. Riol, stasera sei in grave pericolo. Il re sta cercando di sbarazzarsi di te. Devi stare attento. Oh, è così? Il re è davvero ingrato allora. Bene, grazie signore. Vedrò cosa posso fare. Quella notte, fuori dalla stanza di Riol, vennero le guardie del re per portarlo via. Si fermarono lì per assicurare che Riol stesse dormendo. Riol era completamente sveglio e vigile. Udì i suoni emessi dalle guardie mentre arrivavano. Parlò ad alta voce. Sono il grande e potente Riol, l'uomo che da solo ha cacciato via Sette, ha trasformato la roccia più dura in acqua e ha intrappolato due dei giganti più pericolosi. Stai parlando nel sonno? Ho sentito persone russare fortissimo, non sapevo potessero anche urlare. Perché devo aver paura delle persone che stanno fuori dalla mia porta in attesa di saltarmi addosso? Hanno bisogno di più prove di quanto sono forte? Lui sa che siamo qui? Corri, non voglio la sua ira su di noi, corri! E scapparono di nuovo nei loro alloggi. Riol dormì profondamente quando fu sicuro che non ci fosse più nessuno. Da allora in poi, nessuno ha mai più messo in dubbio Riol o la sua forza. Ha governato metà del suo regno con orgoglio e si è goduto la vita con sua moglie. Riol non era stato forte. Non era stata la sua forza a dargli il successo. Era stato il modo in cui aveva usato la sua intelligenza e il suo cervello per dominare mezzo regno. Una mosca nella mia marmellata! Che schifo! Permettimi di scacciarla, mia cara. Mi portano molta fortuna. E potrebbe anche essere stata una piccola fortuna che ha deciso di volare nella sua direzione.